Linee d'ombra di Matteo Caccia. Così secondo voi dovrei rinunciare alla mia vita, alla mia indipendenza, a 10 anni di training autogeno per questi 4 mura e un po' di soldi in più? Quella signora cercò di calmarmi offrendomi un bicchiere d'acqua, ma io allontanai malamente anche lei. Ero fuori controllo. Di padri smemorati e di spie venute dal freddo in una puntata che si intitola Genitori contro figli. Ma stai scherzando? Ma come? Non sei contento? Contento? Ma allora dite sul serio? Ma siete impazziti? Ma che c'entro io? Ma come vi è venuto in testa, scusa? Io un uomo solo che si mette a cudire a 2 vecchi? Gioia, a parte che mammina e papino sono 2 persone del tutto agibili e non vecchie, come hai detto impropriamente tu. Poi, se abbiamo pensato a te, è pure per farti un favore. Si capisce? Perché sono 2 personcine che non soltanto ti faranno sentire meno solo, ma ti daranno pure una mano dal punto di vista economico. Scusaci se è poco. Alfred, il fatto è che tu sei l'unica persona senza responsabilità, senza famiglia, l'unica che vive da sola. Ma io non vivo solo. Non vivi da solo? No, sono 10 anni che coabito. Oddio, ma allora ci sono dei segreti fra di noi. Sono 10 anni che stai con una donna e non ci dici niente. Ma chi è? Che fa? Come si chiama? Si chiama Mario e fa il vigilante. Ma, oddio. Questo è uno dei pezzi, credo, più belli di quel film meraviglioso che si intitola Parenti Serpenti, è un film di Mario Monicelli del 1992 che racconta la reunion natalizia di una famiglia. I figli e i nipoti arrivano da più o meno da tutta Italia e si ritrovano, credo, in Abruzzo, a Sulmona per l'esattezza, dove gli anziani genitori vivono e semplicemente trascorrono le loro vacanze natalizie insieme. In questo anno preciso in cui viene raccontato il film, a un certo punto si deve decidere cosa fare di questi 2 genitori che non possono più vivere da soli a Sulmona, e lì parte una bagarre assoluta tra figli, generi, cognati, insomma, vabbè, avete capito, faccio sempre confusione tra genere e cognato, però figli, figlie e nipoti, per capire cosa fare di questi anziani. Si intitola Genitori contro figli, la puntata di oggi, ma potrebbe probabilmente anche essere ribaltata con Figli contro genitori. Prendiamo una, 2 o 3 storie, le mettiamo insieme e ve le consegniamo ogni giorno dalle 15 alle 16 qui a Linee d'Ombra, delle storie che abbiano a che fare con una linea di confine tra il buio e la luce, tra in questo caso i genitori e i figli. Qual è il confine tra persone che vengono dalla stessa famiglia, persone che hanno lo stesso sangue, persone che hanno dato la vita ad altre persone e persone che hanno ricevuto la vita da altri? Qual è il confine sottilissimo che li tiene legati per l'esistenza o che a un certo punto interrompe questo legame? Oggi vi raccontiamo 2 storie che stanno proprio al confine tra questo rapporto. Sono 2 storie molto diverse tra di loro. Una sembra arrivare veramente da quella serie americana che si intitola The American, che racconta di questa famiglia che è a tutti gli effetti una famiglia americana, a tutti gli effetti, solo che nasconde un segreto, e quel segreto sta proprio in quell'antichissima pratica dello spionaggio che il KGB, per l'esattezza, riusciva a infilare nelle maglie della società civile americana. La serie è molto molto interessante, e questa storia, che è una storia che abbiamo trovato sul Guardian, racconta esattamente quella cosa, però, come sempre facciamo, è una storia che è assolutamente vera, e quindi ve la racconteremo tra pochissimo. La prima storia invece è una storia un pochettino più dolorosa, al punto che la protagonista e autrice di questa storia non ha voluto partecipare, ha semplicemente voluto consegnarci la sua storia, ma chiedendoci di non partecipare, e ha a che fare con qualcosa che è, ahimè, molto noto a tutti noi. È quando a un certo punto un anziano genitore si ammala, comincia ad avere bisogno, lui questa volta, del figlio. figlio e il figlio si prende cura del proprio genitore, o comunque si prende cura lui, o trova il modo perché qualcuno se ne prenda cura, ma non molla la presa. Insomma, questa è la storia che stiamo per raccontarvi, solo che a un certo punto succede qualcosa che è come una scintilla che esplode, e il senso di colpa nei confronti del genitore, o semplicemente quella che viene definita, la cita anche lei nella sua storia, sindrome di Burden, dove Burden sta per fardello, peso, è una sindrome proprio che colpisce quelli che vengono tecnicamente definiti caregivers, cioè le persone che si prendono cura delle persone malate, e a un certo punto non ce la fanno più, raggiungono un punto di saturazione, e quel punto di saturazione può essere molto pericoloso, soprattutto per il rapporto, in questo caso, tra una figlia e il padre. Genitori contro figli, si intitola questa puntata. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Era un pomeriggio di maggio di un paio di anni fa. Avevo appena terminato di lavorare ed ero sveglia dalle 5 del mattino. Quel giorno faceva particolarmente caldo e tutto questo non mi ha aiutata ad affrontare razionalmente quello che sarebbe capitato di lì a poco. Erano le 14 in punto. Avevo appena timbrato l'uscita dal lavoro. Presi il cellulare dalla borsa e vidi che c'erano 14 chiamate perse, tutte di mio papà. Mi sentii subito pervadere da una vampata di caldo in viso e il cuore saltava ai battiti. Dovetti fermarmi in mezzo al parcheggio, fare 3 respiri profondi e attendere che il mio cuore riprendesse a battere regolarmente prima di salire in auto. La mia non era preoccupazione che gli fosse accaduto qualcosa, visto tutte quelle chiamate, ma era proprio rabbia, era collera vera e propria. Queste sue telefonate assillanti ultimamente erano diventate un incubo per me. Le faceva in continuazione, a tutte le ore e senza un valido motivo. Regolarmente dovevo cambiare la suoneria del telefono in modo tale da non farmi prendere dall'ansia al primo squillo. Comunque non lo richiamai. Andai direttamente a casa sua, come tutti i giorni dopo il lavoro. Lui sapeva che stavo lavorando, che non posso portare il telefono in reparto con me e che sarei andata da lui dopo il lavoro. D'altra parte io sapevo che mi aveva chiamato tutte quelle volte senza motivo, come al solito, e che tanto, da lì a poco, lo avrei visto. Arrivata a casa sua, lo trovai sul ciglio della porta col berretto già in testa e il borsello a tracolla, con la sua badante che stentava a tenerlo fermo. Appena lo vidi, lo rimproverai, cercando comunque di restare molto calma, perché mi aveva promesso di non chiamarmi più in quel modo, se sa che tanto dopo il lavoro vado comunque da lui. Ovviamente il mio rimprovero cadde nel vuoto, perché lui si giustificò dicendo che voleva solo dirmi che quando sarei andata da lui lo avrei dovuto accompagnare a fare un bancomat. La sua scusa mi fece tornare di nuovo quella vampata di caldo, ma mi resi conto che era inutile controbattere. Salimmo in macchina, arrivata allo stop girai a sinistra, ma lui cominciò ad agitarsi. Voleva che girassi a destra per andare a un altro bancomat più vicino. Gli dissi che era più pratico andare all'altro bancomat invece, perché c'era più parcheggio e poi a fianco c'era anche il bar. Così ci saremmo presi un caffè assieme, come sempre. Parcheggiai l'auto, scendemmo e solo a quel punto capii cosa stava cercando di dirmi fin dall'inizio. Dopo l'ictus che gli aveva compromesso l'uso della parola, per capire quello che vuole dire ci vuole molto senso di interpretazione. Riuscii finalmente a capire che nonostante lui sapesse che sarei andata da lui dopo il lavoro, la mattina si era fatto accompagnare dalla badante comunque a fare il prelievo all'altro bancomat. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam. loves. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wear the work I got on you, girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? No. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. She's at a stove. Can't believe I got her out here cooking dough. Dopo l'ictus, i suoi riflessi sono molto rallentati e anche digitare il codice sulla tastiera per lui è un grosso problema. Nei bancomat, se non sei relativamente veloce, dopo poco ti rigetta la tessera fuori, senza operare alcun servizio, ovviamente. Cosa che a lui ultimamente succedeva di frequente, motivo per il quale gli avevo proibito di fare bancomat in mia assenza. So che sarebbe stato più logico togliergli il bancomat, ma credetemi, non è così semplice. Cercavo comunque di mantenere in lui un senso di autonomia, ecco. Sta di fatto che lui era convinto che lo sportello gli avesse restituito il bancomat senza però avere erogato i soldi e voleva quindi che io lo accompagnassi in banca per parlare con un impiegato. A quel punto ricordo solo che eravamo in piedi sul marciapiede. La gente è seduta ai tavolini esterni del bar e le auto che transitavano in strada, poi il buio, più totale. Vidi letteralmente nero, la mia vista era totalmente oscurata, sentivo solo la mia voce che urlava così forte che nemmeno la riconoscevo. Non ricordo nemmeno cosa dissi, ma so solo che strappai dal suo collo il borsello, tirai fuori il portafoglio ed estrassi il bancomat, lo strattonai e lui, come per difesa, si rannicchiò curvando le spalle e abbassando la testa. Non so come sarebbe finita se una signora che era seduta al bar non fosse venuta da me, mi avesse preso per una spalla e mi avesse allontanato. Solo a quel punto mi accorsi che intorno a me si stava creando un ingorgo di macchine, pedoni fermi a guardare. Quella signora cercò di calmarmi offrendomi un bicchiere d'acqua, ma io allontanai malamente anche lei. Ero fuori controllo. Ricordo poco, la vista andava e veniva. Salii in macchina e partii sgommando, lasciando lui lì, in mezzo alla strada, da solo. Fui presa da un pianto convulso. Cacciai un urlo nell'abitacolo dell'auto che fece persino girare i passanti a piedi sulla strada. Poi feci il giro dell'isolato, tornando sul luogo del misfatto. Lui era ancora là, in mezzo al marciapiede, con quella signora che cercava di farlo sedere al bar. Posso solo immaginare cosa abbia pensato la gente che passava vedendo una scena del genere. E infatti, dopo poco, arrivarono i carabinieri. Ormai lo stavo già caricando in macchina ed ero in lacrime. Non mi perdonerò mai quello che ho fatto e il rimorso mi accompagnerà per sempre. Ma mi spiace anche per tutta quella gente che ha giudicato senza sapere. Non so se questa mia reazione la possa addebitare alla sindrome di Burden, ma dopo quell'episodio e con mia successiva documentazione ne sono praticamente certa. Darling, if you are the come vi dicevo poco fa, la protagonista, l'autrice della storia che vi ho appena raccontato, ha preferito non partecipare al programma. Questa è una cosa che ovviamente è lecita. Moltissime storie ci arrivano chiedendoci di poter semplicemente raccontare la loro storia. Noi preferiamo sempre avere la voce di chi ce l'ha mandata, perché noi è vero che raccontiamo storie, ma cerchiamo di andare un pochettino più a fondo, e andare un pochettino più a fondo significa conoscere un pezzo di umanità, e quindi quel pezzo di umanità è sì la storia, ma è anche la persona che l'ha vissuta. Però ovviamente abbiamo rispettato le volontà della nostra ascoltatrice, e quindi noi ci siamo rifatti, abbiamo fatto appello alla persona che, diciamo, a cui ci aggrappiamo molto spesso quando si parla di genitori e figli, anche e soprattutto di figli piccoli, di età evolutiva. Lui è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, è una voce nota Radio 24, è Alberto Pellai. Pronto? Ciao Alberto, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Grazie per essere qui, Alberto. Senti, so che tu non ti occupi di persone anziane, quindi non ti chiederò in merito alla storia che ci ha mandato la nostra ascoltatrice, però la sindrome di Burden, cioè la sindrome del fardello che provano i caregiver nei confronti delle persone molto anziane, la si può ritrovare per caso anche nel rapporto tra genitori, diciamo, adulti ma giovani, e figli molto piccoli? Guarda, in generale io la chiamerei proprio una sindrome da accudimento. Accudire, okay, una persona, farsi carico totale dei suoi bisogni è davvero molto faticoso, molto logorante, e genera uno stato di tensione che poi diventa ansia, e a volte poi quello che ti fa soffrire tanto è anche il senso di colpa, cioè il trovarti intrappolato in una posizione dove devi dare molto, dove puoi prendere poco, allo stesso tempo hai pensieri molto ambivalenti e ti sembra di non voler bene abbastanza alla persona che stai curando. E quindi è proprio una zona di stress e di burnout che tu vivi vicino a una persona che devi accudire, ma cui anche vuoi devi bene, volere bene, e a volte è difficile farlo. Senti, a questo proposito, anche non solo riguardo alla nostra storia, ma ne approfitto anche, considerato il momento difficile a causa del virus, moltissimi bambini sono a casa da scuola, e quindi i genitori si trovano nella condizione di o andare a lavorare, o andare metà a lavoro, o fare metà a casa, o scambiarsi col proprio marito o moglie. Insomma, è una situazione molto complessa, e ti trovi ad avere a che fare con i tuoi figli per un periodo di tempo a cui non eri abituato, non eri impreparato. Che cosa accade quando un genitore arriva a un tale livello di saturazione che quasi quel figlio lo vorrebbe chiudere in una stanza e non vederlo più? Una cosa di cui si parla poco, ma che in realtà credo che accada molto di frequente a madri e a padri, giusto? Sì, accade che tu vieni proprio invaso dall'emozione della rabbia, che spesso è proprio esplosiva come l'eruzione di un vulcano, quindi ti abita dalla testa ai piedi, e tu effettivamente ti trovi ad agire dentro ad un copione che non è un copione che hai pensato, elaborato e gestito bene, ma spesso è il copione impulsivo ed emotivo di un'emozione che ti trovi ad agire con modalità che non avresti voluto mettere in gioco, soprattutto proprio coi bambini, coi tuoi figli, che sono le persone a cui tu vuoi più bene e che stai invece trattando come un nemico, perché poi alla fine la rabbia è proprio l'emozione che si scatena automaticamente nel conflitto. Tu percepisci di fronte a te un potenziale nemico e quindi ti metti in una posizione di combattimento, ma è chiaro che un figlio non può essere il tuo nemico, tu sei il suo genitore, lo devi avere e lo devi amare, e quindi questo caos, proprio questo mix di emozioni interiori che ti tengono in balia, generano uno stato fortemente irrisolto dove spesso dai il peggio di te. Senti Alberto, questa cosa non ha a che fare solo con persone dello stesso sangue, vero? Intendo dire, se un figlio viene adottato, viene preso in carica in qualsiasi modo, diciamo dal punto di vista ufficiale o semplicemente ufficioso, un nipote, diciamo il fatto che non abbia il tuo stesso sangue non fa alcuna differenza, rimane tuo figlio e rimane una persona di cui tu ti devi prendere cura, giusto? Sì, e in generale poi quando i bambini ci attivano molto su questa reazione così impulsiva e potente come la rabbia, spesso in realtà riaccendono dentro di noi la memoria del bambino che siamo stati con gli adulti che si sono presi cura di noi, e spesso ci troviamo a fare le peggiori azioni che abbiamo subito quando eravamo bambini e che ci eravamo detti: io questa cosa non la farò mai ad un bambino. Invece ritorniamo proprio al punto di partenza. Grazie mille, grazie Alberto Pellai per essere sempre così chiaro ed esplicito quando ci racconta le cose di figli e genitori. In bocca al lupo, ciao Alberto, grazie. Ciao Matteo, grazie. Sit down beside me and stay a while. Ora ci ascoltiamo le borse in diretta e poi in una puntata che si intitola Genitori contro figli torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. Fino a pochi anni fa, Donald e Tracy Hatfield erano per Tim e Alex, i loro figli, una normale coppia americana che per lavoro aveva vissuto tra Canada, Francia e Stati Uniti. Ma il 27 giugno del 2010 hanno scoperto una verità molto diversa da quella con cui erano cresciuti. In questa puntata che si intitola Genitori contro figli, la seconda storia di oggi è la loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il 27 giugno del 2010, i genitori di Tim Foley, per festeggiare il 20° compleanno del figlio, hanno deciso di andare tutti insieme in un ristorante indiano, non lontano dalla loro casa a Cambridge, nel Massachusetts. Il giorno prima era tornato anche l'altro figlio, Alex, che aveva solo 16 anni, ma era appena stato per 6 mesi in viaggio studio a Singapore e questo era un motivo in più per fare una festa. Entrambi i fratelli erano nati in Canada, ma negli ultimi 10 anni la famiglia aveva vissuto negli Stati Uniti. Il padre dei ragazzi, Donald, aveva studiato a Parigi e poi ad Harvard e in quel periodo lavorava presso una società di consulenza con sede a Boston. La madre, invece, Tracy, lavorava come agente immobiliare. Dopo il pranzo i Foley sono tornati a casa e hanno stappato una bottiglia di champagne. Ma mentre stavano ancora festeggiando, all'improvviso hanno sentito bussare. Quando hanno aperto, si sono visti invadere la casa da un gruppo di uomini armati. Tim ha subito pensato di essere colpevole di aver bevuto pur essendo minorenne la sera prima. Ma in realtà gli uomini dell'FBI cercavano i suoi genitori. Donald e Tracy non hanno opposto alcuna resistenza. Si sono lasciati ammanettare e sono stati portati via su 2 auto separate. Tim e Alex sono stati invece portati in una stanza d'albergo e la loro casa è stata messa sotto sequestro. L'accusa per i loro genitori era quella di essere agenti illegali di un governo straniero. Alex era convinto che ci fosse qualche errore, che gli agenti avessero sbagliato casa o semplicemente avessero interpretato il lavoro di consulenza del padre per qualcos'altro. Donald viaggiava spesso per il suo lavoro, forse questo era stato confuso con lo spionaggio. E anche quando un paio di giorni dopo i 2 fratelli hanno sentito alla radio che 10 spie russe erano state arrestate su tutto il territorio americano, sono rimasti sconvolti e sono rimasti comunque convinti che ci fosse stato un terribile errore. Ma l'FBI non aveva commesso un errore. L'uomo e la donna che i ragazzi conoscevano come mamma e papà erano sì i loro genitori. Ma i loro nomi non erano Donald Hatfield e Tracy Foley. I loro veri nomi erano Andrei Buzrukov e Elena Vavilova. Erano entrambi nati in Unione Sovietica, erano stati formati nel KGB ed erano stati spediti all'estero come parte di un programma sovietico di agenti segreti sotto copertura, conosciuto in Russia come gli illegali. Sovietica fu l'unico Stato, nel corso della Guerra Fredda, ad addestrare i suoi agenti affinché si fingessero cittadini di un altro paese. Il luogo preferito per inserire gli illegali era il Canada. Qui le spie avevano il tempo di costruire la storia alternativa delle loro vite. Dopo il Canada, le destinazioni finali degli illegali erano il Regno Unito o gli Stati Uniti. Per il KGB, un illegale era prezioso soprattutto per il suo completo anonimato. E il suo scopo era di entrare in contatto con alcune fonti senza destare sospetti. Per Alex e Tim, quel giorno è iniziata una nuova vita. Alex ricorda i giorni dopo il raid in cui avevano confiscato telefoni e computer anche a loro, anche ai figli. Tutti i conti bancari della famiglia erano stati congelati. Durante il loro primo colloquio, la madre ha suggerito loro di sfuggire al circo mediatico e volare verso la Russia. Una volta a Mosca, sono stati accolti da un gruppo di persone che si sono presentate come i colleghi dei loro genitori. «Ci hanno mostrato le foto dei nostri genitori in uniforme», ha raccontato Alex. Quello era il momento in cui ho pensato «Ok, allora è tutto vero». Alex e Tim sono stati portati in un appartamento e hanno scoperto di avere uno zio, dei cugini e addirittura una nonna, che però non parlava in inglese ovviamente e loro non parlavano una sola parola di russo. Entrambi i fratelli raccontano di un'infanzia assolutamente normale. I loro genitori avevano molti amici. Non hanno nessun ricordo di loro che parlavano di Russia o di Unione Sovietica. Non hanno mai mangiato cibo russo. La cosa più vicina alla Russia della loro vita era un compagno di scuola proveniente dal Kazakistan. Per mesi, Tim e Alex hanno dovuto riflettere sulla loro identità e decidere se arrabbiarsi con i loro genitori per quello che era accaduto. Hanno deciso di non farsi condizionare il futuro dal loro passato. Oggi Alex ha 21 anni, studia in una città europea, mentre suo fratello Tim ne ha 26 e lavora in Asia, nel settore finanziario. Entrambi i fratelli stanno combattendo una battaglia legale per vedersi restituita la cittadinanza canadese che gli è stata tolta per reati che non hanno commesso in prima persona. Nessuno dei due oggi vuole vivere in Russia, ma entrambi ritornano spesso a Mosca per rivedere i genitori. Alex ha raccontato che alla fine è riuscito a trovare una risposta alla domanda se odiare o meno i suoi genitori. Qualunque segreto nascondessero e qualunque fosse il loro vero nome, ha detto, sono comunque la stessa coppia che per anni ci ha cresciuto con amore. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall. La storia che vi abbiamo raccontato e che sembra veramente uscita dalla serie americana The Americans, che racconta di queste spie russe infiltrate nella società americana, l'abbiamo letta in un pezzo del Guardian che si intitolava The Day We Discovered Russian Spies, il giorno in cui abbiamo scoperto le spie russe. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. È da 3 settimane che vi stiamo raccontando una storia dal cuore di una di quelle scuole americane in cui purtroppo succede che qualcuno imbracci un fucile, entri e spari a tutti i suoi compagni o ex compagni. Sono per lo più dei ragazzi che lo fanno ed è una storia che ormai, come purtroppo succede quando succede 1, 2, 3, 4, 5 volte, è una storia a cui siamo assuefatti. Quando al telegiornale arriva la notizia e appare magari la scritta in basso, no? Nel sottopancia, attacco in una scuola in Kentucky, in una scuola in Florida, ci sono delle persone morte all'interno della scuola. Ecco, quelle cose lì ormai, come dire, sappiamo di che cosa stiamo parlando, è una piccola casella che la nostra mente purtroppo conosce già. Noi stiamo cercando quindi di raccontarvi in queste settimane, e purtroppo siamo alla fine, finirà domani la storia che Mauro Pescio ha raccolto e racconta per noi, stiamo quindi provando a raccontarvi una storia da dentro. C'è una grande differenza, l'avrete notato, ormai lo saprete, tra dare una notizia e sentire una storia che arriva dal cuore di quella notizia. Di solito per ricevere quella storia, perché quella storia abbia un senso, perché sia lucida, perché sia chiara, ci vuole del tempo in mezzo. Bisogna che ci passi un po' di tempo e magari anche un po' di spazio. Bisogna che quella persona che ha subito quella notizia, nel bene o nel male, sia cresciuta, sia magari cambiata, sia magari andata a vivere lontano dal posto in cui quella cosa terribile è accaduta. E a quel quel punto può raccontarla in una storia. Sono passati 2 anni da quel 14 febbraio del 2018 e Cheryl ce la sta raccontando, ma davvero la storia di questi attacchi all'interno delle scuole negli Stati Uniti ha una storia vecchissima di quasi 80 anni. Il primo attacco in una scuola è stato alla Bath School nel Michigan il 18 maggio del 27, il 1927, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Un uomo che era impegnato nelle attività scolastiche, quindi probabilmente un docente o un insegnante, in qualche grado una persona che lavorava all'interno della scuola, ha fatto esplodere 3 ordigni e ha ucciso 45 persone. E le motivazioni non sono state chiare, si parlava addirittura delle nuove tasse per la costruzione della scuola che gli avrebbero impedito di continuare a lavorare o di continuare di mandarci i propri figli. E poi sono una sfilza incredibile, poi nel 98 5 morti, nel 99 15 morti, nel 99 è la famosissima Columbine High School, è stata quella che ha dato il là alla questione abbiamo un problema, cioè gli Stati Uniti si sono accorti che quello degli attacchi nelle scuole era veramente un problema, ed era un problema causato probabilmente dall'eccessiva libertà con cui ci si possono procurare delle armi in quel paese. È stato fatto un film, Michael Moore ha fatto un film che si intitolava Bowling for Columbine, che è stato premiato con un Oscar nel 2003, e lì io ricordo, avevo poco più di 20 anni, ricordo le facce di quei 2 ragazzini che erano miei coetanei quasi, che erano entrati vestiti con delle tute d'assalto, delle tute nere, delle armi, e avevano sparato uccidendo 15 dei loro compagni. At 2 in the afternoon, gunshots ring out in this South Florida high school. Terrified students hiding in classrooms during the gunman's rampage. The shooter reportedly first pulled a fire alarm to get more students out of the classroom, maximizing potential victims. As soon as the fire drill got... E questo è proprio l'audio che arriva dalla scuola di Cheryl, la Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida, della storia che vi stiamo raccontando. È accaduta il 14 febbraio del 2018 e tra pochissimo torniamo con Cheryl. Dopo avervi raccontato dei vari massacri che ahimè sono stati perpetrati dal 1927 addirittura nelle scuole degli Stati Uniti, ora torniamo dalla protagonista della nostra storia seriale, Cheryl. Cheryl ha raccontato, Cheryl e suo padre, che sentiremo domani nell'ultima puntata della storia seriale, avremo al telefono direttamente il papà di Cheryl, che ci racconterà come stanno ora, cosa stanno facendo, a che punto della vita sono. Comunque loro due hanno raccontato a Mauro Pescio la storia di quella giornata, e quindi noi, come se fossimo stati con lei, vi abbiamo raccontato in queste settimane che cosa è accaduto, come è successo tutto, in quanto tempo è durato e come hanno reagito le persone, o quantomeno come ha reagito Cheryl. Ora torniamo con lei e sentiamo che cosa continua a raccontarci. And after the